Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Vilnius, luglio 2003. La carezza e la mitraglia. Triste storia di Bertrand Cantat e delle sue ragazze infelici. C'era una volta una favola, ma qualcuno l'ha infilata nel cesso e ha tirato lo sciacquone. Ecco che sta pensando Bertrand mentre la polizia fa quello che deve fare. Un tizio in divisa, mai visto prima, non gli leva gli occhi di dosso. Gli dice di seguirlo in commissariato. Ricomincia tutto da capo. Una donna in un sacco nero, le manette, gli sbirri. Quando finirà tutto questo schifo? Bertrand è in macchina adesso. Bordeaux è pallida e sfila in colore dai finestrini. Bertrand chiude gli occhi, ricorda tutta quella merda che credeva di aver sepolto per sempre. 27 luglio 2003, Vilnius, Lituania. Il caldo appiccicoso filtrava tra le tende. Il letto dell'hotel sapeva di sabbia marina, di tempi passati. Marie era di pessimo umore. Se ne stava accovacciata con le ginocchia strette al petto, dondolava la testa. Quando faceva così, era meglio girare al largo, Bertrand oramai lo sapeva. In genere la secondava, ma quella sera era fatto come una zucchina. Tutta colpa della boccia di Saman che si era appena scolato. Tutta colpa del fumo e di tutto quello schifo che si era infilato su per il naso. Bertrand aveva provato a scrivere. Quando era fatto, le canzoni erano splendide. Levano porterà, il pezzo che l'aveva reso uno dei più ricchi figli di puttana di tutta la Francia, e aveva scagliato i Noir Désir sulla vetta delle classifiche europee, l'aveva buttata giù dopo una sbronza di tequila. La roba, nella testa di Bertrand, balla peggio di King Kong in gabbia, e quella stronza di Marie che non la smette di frignare, di lagnarsi. Per cosa poi? Per quello schiaffo? Cazzo, Marie. Quando ti comporti così perdo la pazienza, lo sai. Marie non la smette di piangere. Urla che se ne andrà. Marie, piccola testarda Marie. E pensare che se ne era innamorato proprio per colpa di quella testa matta. Con Marie era stato un dannato colpo di fulmine. Aveva lasciato Cristina, l'amore della sua vita. Se n'era andato di casa pochi giorni dopo la nascita della piccola. I primi tempi con Marie erano stati deliziosi. Poi le cose si erano messe male. La loro vita insieme assomigliava a una fottuta pentola a pressione. Ecco perché Bertrand le aveva proposto quel viaggio in Lituania. Stacchiamo la spina, tesoro, ne abbiamo bisogno. Così aveva detto. L'idea era quella di rilassarsi, lasciarsi tutto alle spalle. E adesso guardateci, pensa Bertrand. Marie scatta in piedi sul letto, gli urla che è un fallito, un miserabile bastardo. Bertrand perde il controllo, le mette le mani addosso, la colpisce così tante volte che Marie perde i sensi. Ha smesso di gridare, finalmente. Dà un'occhiata allo scempio che c'è al posto della faccia di Marie. La veglia tutta la notte. Il respiro di Marie è sempre più debole. Verso le due, Bertrand acchiappa la cornetta e telefona al fratello di Marie. È ancora sconvolto. Pasticcio brutto, gli dice. Poi attacca e torna da lei. All'alba qualcuno sfonda la porta. Ficca dei braccialetti ai polsi di Bertrand, porta la ragazza in ospedale, ma è troppo tardi. Marie è in coma da un pezzo, non si sveglierà più. Al processo, nemmeno il giudice capisce che è successo. Di sicuro Bertrand non è in grado di spiegarlo, non ricorda niente. Era in botta pesante. È rimasto in volo un giorno e mezzo. Il processo è un casino e si chiude con una sentenza ridicola. Bertrand dovrà scontare 8 anni in un carcere lituano. Dopo 4 sarà fuori. Fine del flashback. Una volta fuori, Bertrand va nell'unico posto dove non ci siano coltelli e sputi e insulti ad aspettarlo. Torna da Cristina, l'amore della sua vita, la madre dei suoi figli, l'ex moglie, abbandonata poco dopo il parto per una ragazza che ora non c'è più. Mentre era dentro, il mondo gli si è rivoltato contro. La vita di Bertrand è finita quella notte a Vilnius. Cristina e i bambini sono tutto ciò che gli è rimasto. Cristina l'ha ripreso in casa, è una specie di santa. Bertrand sta bene adesso, niente più droghe né alcol. Bertrand sta rimettendo insieme i pezzi della sua vita, ma lassù, da qualche parte, ci deve essere qualcuno che l'ha preso di mira. Perché la vita di Bernard Cantin, ex frontman dei Noir Désir, il 10 gennaio 2010 va in pezzi per la seconda volta. Quando torna a casa dopo la solita passeggiata del mattino della domenica, la sua schiena è percorsa da brividi ghiacciati. Di fronte alla porta di casa di Cristina è pieno di sbirri e fotografi e maledetti curiosi. Il corpo senza vita di Cristina pende dal lampadario, il collo spezzato dal cappio. Cristina si è ammazzata, Dio solo sa perché. Bertrand non c'entra niente, ma gli sbirri lo portano dentro ugualmente. Sarà rilasciato la sera stessa. Bertrand Cantin è di nuovo solo adesso, in testa, solo la maledetta strofa di quella canzone che l'ha reso famoso. La carezza e la mitraglia, questa piaga che ci tormenta, il palazzo dei giorni andati, di ieri e di domani. Il vento ci guiderà. Simone Sarasso, in libreria con 70. Marsilio Editori, 693 pagine, €21,50.